Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 5 dicembre, il sole in regione sorto alle 7.33 tramonterà alle 16.22, la luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Come far diventare la vostra amministrazione comunale amica delle api e degli alberi? C'è in Friuli un comune apripista che oggi ci illustra le sue esperienze. A seguire parliamo ancora di api e insetti pronubi e di come l'agricoltura biologica ne accolga in numero maggiore rispetto al resto dell'ambiente con evidenti vantaggi. Per la rubrica del vino si parla ancora dell'utilizzo della solforosa in cantina e degli accorgimenti necessari. In orto il mese di dicembre è gratificante soprattutto per la raccolta, mentre per la rubrica dell'università è la volta di una tesi sperimentale sulla coltivazione della canapa in regione, che tante soddisfazioni potrebbe dare agli agricoltori nostrani. E poi la terza e ultima puntata sulla storia del tiramisù è la volta di quello di Pieris. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Sono partiti con un progetto di amicizia con le api. La loro strada ha continuato con altre amicizie, quella degli alberi. È il comune di Campo Formido. Di cosa si tratta? Ce lo dice oggi Cristian Romanini, che è il vice sindaco. Partiamo dalle api. È una convenzione che abbiamo sottoscritto nel 2019 con l'Università di Udine. Devo ringraziare a tal proposito il professor Pietro Zandi Giacomo, che è stato il collegamento fra il nostro comune e il nostro Ateneo Friulano. Questa convenzione è un impegno che il comune ha sottoscritto per mettere in campo delle politiche e delle buone pratiche per favorire gli insetti impollinatori. Il ragionamento nasce dal fatto che a Campo Formido ci sono molti prati stabili e di conseguenza anche molti insetti impollinatori. Abbiamo adottato l'app come un testimonial globale per un progetto locale. E come si concretizza questa amicizia? Abbiamo messo in campo delle iniziative di coinvolgimento delle scuole. Il 20 maggio abbiamo celebrato la giornata dell'ape, abbiamo consegnato, grazie anche al vivaio regionale di Tarcento, delle piantine mellifere, erano degli arbusti che abbiamo consegnato alle scuole medie. Poi abbiamo fatto anche degli incontri online per sensibilizzare su questo tema. E la strada è proseguita con l'amicizia con gli alberi. Avete ripristinato quella che una volta si faceva ogni anno in tutte le scuole, la festa dell'albero. Esattamente, ripristinato perché l'anno scorso, causa pandemia, era saltato. Abbiamo dato però una interpretazione che già da qualche anno veniva messa in atto a Campo Formido, ovvero consegnare ai nuovi nati una piantina, in questo caso un alberello, che i nati nel 2019 e nel 2020 hanno ricevuto, e questa pianta, anche questa è una pianta mellifera, per cui abbiamo consegnato un ciliegio, un tiglio, un acero, tutte piante che in qualche modo hanno delle fioriture che favoriscono il lavoro degli insetti impollinatori. Come risponde la popolazione? È un progetto che piace perché ovviamente è cresciuta la sensibilità in questi ultimi anni e ci sprona a proseguire. Proseguire verso dove? Cosa volete raggiungere? Vogliamo raggiungere un progetto ambizioso che coinvolge il mulino di Basaldella, che è ai limiti del Parco del Cormor. Anche Campo Formido, non solo Airizzi, ha il Parco del Cormor. E quindi in questo mulino, che è appartenuto alla famiglia del Torre da qualche anno di proprietà dell'amministrazione comunale, abbiamo deciso di dedicarlo al tema ambientale e diventerà una sorta di centro visite sul tema, per cui al piano terra avremo un percorso sul mulino e sul Cormor, al piano centrale il tema dei prati e all'ultimo piano il tema della apiologia. Api e agricoltura biologica, un connubio stretto che ci rimanda direttamente alle tutele e rispetto che si deve avere in natura. Cristina Micheloni. Sull'onda del delirio tecnicistico per cui pare che le uniche soluzioni per affrontare i tangibilissimi problemi ambientali, clima incluso, pendano da qualche nuovissima invenzione, tipo una mega macchina che spara CO2 sottoterra o una pianta mutante in grado di organicare da sola le emissioni di un jet. Ovviamente è tutto ancora da inventare, con la necessità di grossi investimenti in ricerca e innovazione, meglio se coperti dal pubblico. pubblico, forse varrebbe la pena, vista l'urgenza, di guardarsi attorno e vedere se magari nel frattempo si può fare qualcosa con quello che già c'è e si sa. Tra l'altro, visto che alla scienza ci affidiamo, teniamo presente che anche l'ecologia è una scienza, ed è anche bella complessa. Forse troppo complessa per chi invece cerca soluzioni nuove, sì, ma semplici. Forse troppo semplici per essere davvero efficaci. Di che parlo? Prendiamo un problema alla volta, il declino della biodiversità e la drastica diminuzione degli apidoidei, ovvero delle api, sia quelle allevate che producono il miele, sia quelle selvatiche, gregari o meno, che sono comunque fondamentali per l'impollinazione dei fruttiferi e di molte piante, anche quelle che gli umani non usano direttamente, ma che agli umani forniscono molti servizi. Da anni verifichiamo nella stagione primaverile di quanto si siano ridotte le popolazioni dei pronubi e ce lo confermano gli apicoltori, per i quali i rischi di non portare a casa miele, o peggio, di perdere le famiglie, sono sempre più frequenti. Dati scientifici alla mano, ultimi quelli della meta-analisi svolta dal Thunen Institute nel 2019, nelle aziende biologiche ci sono il 23% in più di diversità e il 26% in più di quantità di specie di insetti che visitano i fiori, quindi tutti gli apidoidei, ma non solo. Questo comparando aziende bioconvenzionali delle stesse tipologie di produzione e degli stessi areali e fasce climatiche. In realtà l'analisi riporta anche dei dati più ampi sull'effetto della conduzione biologica sulla biodiversità dei territori. Sui seminativi la gestione bio porta in dote un 95% in più di biodiversità mettendo assieme insetti, piante e uccelli. Questo conferma dati un po' più vecchi ma sempre scientifici, anche la botanica, l'ornitologia, l'entomologia e la biologia sono scienze, anche se non si praticano solo in laboratorio e in camice bianco, secondo i quali la presenza del 5-20% di superficie bio in un areale agricolo comporta il 50% in più di biodiversità nelle aree non coltivate, incluse in tutto il territorio, quindi pure nelle aziende convenzionali. E per ritornare alle api, la presenza di questo 5-20% di superficie bio aumenta del 60% la presenza di apidoidei e nello specifico del 50% quella dei bombi su tutto il territorio. Insomma, il bio fa bene anche a chi non lo pratica. Adesso è chiaro perché è strategico sostenere e sviluppare il biologico, che è ciò che sostiene la Commissione europea con il Farm to Fork. È qualcosa che si può fare da subito, che non richiede così tanti investimenti e che va a beneficio ambientale e anche economico di molti e non di pochi. Eppure a tante piace di più aspettare l'arrivo di una scientifica bacchetta magica. Oggi il professor Roberto Zironi per la rubrica del vino ci fa un quadro dei vantaggi e delle cautele nell'utilizzo dell'anidride solforosa in cantina. Nell'incontro precedente abbiamo visto come l'uso dell'anidride solforosa nella produzione del vino deve essere vista anche in un'ottica di tutela del consumatore. Purtroppo la produzione di anidride solforosa può anche essere naturale, in quanto alcuni ceppi di lievito che sono responsabili della fermentazione alcolica che produrrà il vino possono produrre solfiti in quantità anche ragguardevoli, che possono arrivare a qualche decina di milligrammi. Abbiamo anche visto come esiste un limite di legge di 10 mg litro di contenuto nel vino, oltre il quale deve essere indicato obbligatoriamente in etichetta che il vino contiene solfiti, come indicazione per il consumatore. Vista la produzione naturale della solforosa, alcuni produttori spregiudicati, per non utilizzare il termine poco, diciamo, accattivante da un punto di vista del mercato, contiene solfiti, hanno inventato l'addizione senza solfiti aggiunti, cioè dicendo che se c'è produzione di solfiti o contenuti di solfiti all'interno del vino, questi sono naturali e loro non utilizzano solfiti nella produzione del vino stesso. Ora, questa dichiarazione risulta essere ingannevole per il semplice fatto che non esiste nessuna metodica analitica in grado di discriminare tra la solforosa prodotta naturalmente e quella aggiunta, e tutte e due le solforose hanno un effetto tossicologico. Quindi la possibilità di utilizzare il termine senza solfiti aggiunti è limitata soltanto a quei vini che contengono meno di 10 mg litro di solforosa. E questi vini sono veramente molto pochi. Tutti gli altri casi si tratta chiaramente di una pubblicità ingannevole che viene perseguita dalla legge. Quando noi aggiungiamo solforosa al vino, questa si distribuisce e si organizza in due categorie. Una solforosa cosiddetta libera, in grado di svolgere quindi delle attività tecnologiche, che a sua volta in funzione del pH acido, e il vino è una bevanda pH acido, si organizza in tre forme: una forma non dissociata, una forma semidissociata e una forma dissociata. Mentre una parte della solforosa la troviamo come combinata a dei composti caratteristici del vino stesso. È chiaramente soltanto la forma libera, in particolare la solforosa molecolare, che svolge un'azione tecnologica. Quindi il nostro obiettivo è quello di avere un buon livello di solforosa molecolare, intorno a 1 mg/L, avendo globalmente tutte le altre forme di solforosa in quantità molto più ridotta. Per arrivare a questo risultato, ecco quindi che la solforosa viene utilizzata soltanto in particolari momenti della vinificazione, cercando di ovviare ai suoi caratteri importanti, sia con l'utilizzazione di altri additivi o con l'utilizzazione di opportune tecnologie. In Orto, nonostante il fermo colturale, il mese di dicembre è un mese ottimo per quanto riguarda le raccolte, come ci dice Sara Bosco. Il mese di dicembre non permette di compiere molte lavorazioni, operazioni nell'orto, ma rappresenta ancora un periodo molto attivo per quanto riguarda le raccolte. Infatti possiamo trovare a maturazione finocchi, tantissimi tipi di brassiche come i cavolfiori, il cavolo cappuccio, i broccoli, ma anche radichi, bieta, cicoria, porro, bietole e rape. È importante però che queste colture vengano protette se presenti in pieno campo con dei teli in tessuto non tessuto, ma anche con paglia se ne disponiamo a sufficienza. Se invece disponiamo di un tunnel freddo, le colture saranno già al sicuro dalle basse temperature di questo periodo. E stessa cosa vale per quanto riguarda le coltivazioni in balcone che vengono effettuate nelle miniserre. Queste strutture ci permettono di ottimizzare la radiazione solare diretta, perciò oltre a proteggere le piante dalla temperatura, intensità luminosa, dagli eventi atmosferici estremi, ci aiuta a programmare in maniera più sicura la nostra produzione. Infatti ci permette di ottenere raccolte in momenti dell'anno che in pieno campo non si potrebbero fare. Nel mese di dicembre nel nostro areale non ci sono molti lavori in pieno campo da poter effettuare, anzi le colture che prima abbiamo citato pronte alla raccolta è importante che vengano anche tolte entro la fine di questo periodo, altrimenti si rischia di danneggiare i prodotti col perdurare delle basse temperature. Con questi valori le semine in pieno campo ma anche in tunnel freddo non sono più possibili, possono essere solo eseguite in serre riscaldate o su semenzai a letto caldo. Nel caso di periodi asciutti si può provvedere anche all'aratura con l'interramento di letame quasi maturo che sarà pronto poi al momento delle semine primaverili. Queste operazioni vanno però eseguite solo se la terra si presenta in condizioni idonee, altrimenti si rischia di avere ripercussioni nel corso della stagione seguente per problemi di ristagno idrico ma anche di terreno difficile da affinare poi per le semine. Per la rubrica dell'Università e delle Tesi, oggi parliamo di quella di Angela Bravin, che si è laureata all'Università di Udine con una tesi sperimentale dal titolo Effetto dell'ambiente e alcuni aspetti tecnico-agronomici sulla produzione quanti-qualitativa in varietà di canapa. Quali sono stati i risultati agronomici di questa tesi? Nella mia tesi è stata valutata l'influenza dell'epoca di semina e l'effetto di due trattamenti di concimazione minerale organica sulla produzione quanti-qualitativa del seme e dei fusti in due varietà di canapa industriale in due diverse località del Friuli Venezia Giulia. Sono state eseguite anche delle osservazioni sulla vitalità del polline per valutare l'effetto della varietà, della concimazione e della tipologia di conservazione. Le prove si sono svolte a Sant'Osvaldo, presso l'azienda Servadei, nella media pianura friulana, e a Verzegnis, in località Avons, nella zona pedemontana. Sono state impiegate due varietà di canapa monoiche, Zenith, precoce, taglia medio-bassa, selezionata per la produzione di seme, e Futura, varietà tardiva, taglia medio-alta e adatta alla duplice attitudine, seme e biomassa. La semina è stata effettuata su terreni franchi e con buona dotazione organica in tre epoche diverse, tradizionale a maggio, posticipata a giugno e in secondo raccolto a luglio. Nelle tesi concimate sono state apportate 80 unità di azoto, come letame bovino interrato in presemina o sotto forma di concime minerale a spaglio in copertura. Dall'analisi sui semi è stata confermata la correlazione tra le alte temperature durante la fase di accrescimento del seme e il peggioramento delle caratteristiche quanti-qualitative del seme stesso in entrambe le varietà e le località. Negli ambienti del Friuli Venezia Giulia sono quindi da preferire varietà monoiche tardive come Futura, che svolgono la fenofase di fioritura, riempimento del seme verso fine estate, quando le temperature sono più miti, e pertanto sono in grado di fornire una produzione congiunta superiore di seme per olio e farina e di fibre e canapulo, ampliando così la possibilità di reddito. Per quanto riguarda l'effetto della concimazione, dalla prova non sono sortite differenze significative tra la concimazione organica e quella minerale, anche se Futura, essendo una varietà tardiva, ha beneficiato maggiormente della mineralizzazione dell'azoto organico. Considerando le esportazioni della coltura, la dose di 80 unità di azoto, al netto delle perdite, è risultata sufficiente per integrare il fabbisogno del terreno coltivato a canapa nel territorio friulano. Infine, dalle osservazioni sulla vitalità del polline, è emerso che la conservazione incrementa la mortalità, mentre la varietà, la concimazione e l'umidità non incidono sulla vitalità del polline conservato. Terza e ultima puntata che Roberto Zottar dedica alla storia del tiramisù, oggi tocca a quello di Pieris. Abbiamo visto che il tiramisù è stato inventato a Tolmezzo negli anni 50 del secolo scorso. Negli anni 40 a Pieris, in provincia di Gorizia, apparve invece la Coppa Vetturino presso l'omonimo ristorante della famiglia Cosolo. Il ristorante al Vetturino era un punto di riferimento per i gastronauti di allora e la prima edizione italiana della guida Michelin gli assegnò una stella. Mario Cosolo, dopo un apprendistato nella pasticceria Pirona di Trieste, nel 1935 si imbarcò come cuoco sul Panfilo Reale Savoia. Per una competizione di bordo per un nuovo dessert per il re Vittorio Emanuele III, Mario preparò un dolce al bicchiere con pan di Spagna bagnato al marsala, mousse al cioccolato e zabaione. La coppa apparve poi nel menù del ristorante del papà di Mario come Coppa Vetturino. Anche questa coppa venne soprannominata Tirimesù in triestino da un avventore stuzzicato dalla venente cameriera. Una foto del 1985 ritrae il pugile Tiberio Mitri e Fulvia Franco, Miss Italia del 1948, con sullo sfondo un manifesto che loda il tiramisù di Mario. Per realizzarlo, preparate o comperate un pan di Spagna. Montate a bagnomaria uno zabaione con 6 tuorli, 6 cucchiai di zucchero, 80 ml di marsala secco e poi fate raffreddare. Montate un litro di panna e aggiungetene 2 terzi allo zabaione. Alla restante panna incorporate 3 cucchiai di cacao mescolati con 3 cucchiai di zucchero. Riempite 8 coppe a metà con la mousse al cioccolato. Adagiate sopra del pan di Spagna inzuppato al marsala, ricoprite di zabaione e spolverate di cacao. Il dolce si deve assaporare in verticale, raccogliendo con il cucchiaio tutti gli strati della coppa. Nel 2017 il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, su richiesta della nostra regione, conseguente a una documentata richiesta dell'Accademia Italiana della Cucina di Udine, a cui ho collaborato, ha incluso i 2 tiramisù regionali nella lista dei prodotti tradizionali agroalimentari, PAT, del Friuli. Dolci profondamente diversi, quelli di Pieris e Tolmezzo, ma friulani, anche se non tipici, e legati dallo stesso nome. In sintesi, il tiramisù di Pieris è il primo nome documentabile del dolce, ma è senza mascarpone. Il tiramisù di Tolmezzo negli anni 50, il primo vero dolce al mascarpone caffè, e infine il tiramisù di Treviso negli anni 70. Litigare sulla paternità del dolce non va di pari passo con la sua bontà. Noi dovremmo essere orgogliosi di averlo inventato, ma dovremmo riconoscere che anche i trevigiani lo hanno fatto conoscere nel mondo. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo ma con prezzi sostenuti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 27,10 e 27,30 euro il quintale IVA esclusa. L'orzo speso specifico 62,65 tra 28,90 e 29,30. Il frumento tra 32,40 e 32,90 e la soia tra 59,30 e 59,80. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 9,10 euro e la soia di 18,50 euro il quintale. Passando ai bovini da macello è proseguito il buon andamento delle quotazioni, con le vacche fine carriera di prima qualità che vengono pagate a peso morto tra 2,70 e 3 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda tra 1,90 e 2,60. Mercato stazionario nel settore vitae da ristallo, con le quotazioni che accertano i blubelga maschi quotati tra 6,50 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,40 e 4,90, i frisoni tra 1,70 e 2 euro e i bruni tra 1,50 e 1,70. Nel comparto suinicolo si evidenzia ancora un mercato stagnante. I lattonzoli di 30 kg vengono pagati franco partenza a 2,02 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono quotati a 1,51 il chilo. In aumento le quotazioni del prosciutto di San Daniele con osso, che viene pagato tra 9,90 e 14,90 euro al chilo, quello di Sossato tra 13 e 18,70. Da Legno Servizi di Tolmezzo rileviamo i prezzi delle legna da ardere, che vengono quotati a 6,70 euro al quintale. Rispetto al mese precedente il prezzo è aumentato di 10 centesimi. Infine, nel settore degli avi cunicoli si segnalano scambi attivi con prezzi in ripresa. I polli a terra vengono pagati tra 1,21 e 1,23 euro al chilo IVA esclusa, i capponi natalizi tra 4,10 e 4,20, le anatre tra 2,96 e 3 euro, le faraone tra 2,77 e 2,87, i tacchini maschi tra 1,67 e 1,69, le femmine tra 3,10 e 3,20, i conigli oltre 1,5 kg a 2,72 e 2,78 e le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 16,50 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA, Livio Stefanuto, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Novembre si è chiuso da poco e possiamo farne un bilancio meteorologico. Il mese si era aperto con le caratteristiche piogge intense tipiche del periodo, per cui tra il primo e il 4 sono caduti sui monti tra i 100 e i 300 mm, sulla pianura tra 60 e 160, sulla costa 30 e 40 mm, ma a Trieste solo 10-20 mm. Sarà questo l'episodio più significativo del mese, sebbene altre perturbazioni abbiano portato ulteriori precipitazioni in seguito, che verso fine mese sono state anche nevose a bassa quota. Nel complesso questo novembre ha avuto piogge nella norma, ma per alcune zone non è stato così. In particolare nel basso pordenonese e nel tarvisiano le precipitazioni sono state dal 30 al 50% in più, mentre sulla bassa pianura udinese, l'Isontino e Trieste ha piovuto decisamente meno del solito, con deficit dal 20 al 50%. E a Trieste città anche oltre il 50%. Per le temperature va segnalato il periodo particolarmente mite intorno a San Martino, con massime fino a 20 gradi in pianura, valori eccezionali per il periodo. Poi, nella terza decade, è arrivato il freddo e le prime gelate in pianura, con un ritardo di una ventina di giorni rispetto alla norma. Il giorno 30, nelle valli alpine, si è scesi intorno ai meno 10, con un picco nella solita Fusine di ben meno 15 gradi centigradi. Il mese ha avuto la temperatura media nella norma, o leggermente superiore alla norma, più freddo invece nel Tarvisiano, mentre il mare ha avuto la temperatura nella norma o di pochi decimi di grado inferiore. Dopo il passaggio della depressione, che oggi porterà altre piogge su pianura e costa e nuova neve in montagna, avremo qualche giorno di bel tempo, con cielo in genere sereno o poco nuvoloso per velature in quota, ma con forti gelate di notte al mattino, nei fondovalle e in pianura. In pianura le minime potranno scendere fino a meno 5, mentre in montagna fino a meno 12, meno 15. Fino a martedì mattina sulla costa soffierà buona moderata. Da mercoledì pomeriggio e fino a tutta la giornata di giovedì avremo probabilmente un peggioramento con piogge abbondanti su pianura e costa e forti nevicate in montagna, oltre i 400 metri circa, mentre sulla costa potrebbe soffiare scirocco sostenuto specialmente dalla sera. Venerdì l'Italia sarà ancora interessata dalla depressione con aria fredda in quota e si potranno avere ancora delle precipitazioni sparse in genere deboli. Nel fine settimana invece dovrebbe ritornare un promontorio anticiclonico con tempo relativamente stabile. Come sempre vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. A San Nicolò si ara col bo, ovvero a San Nicolò il 6 dicembre si arano i campi con il bue, con il terreno ghiacciato ci voleva più forza di quella delle vacche. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.